Ciao a tutti, noi siamo J. Joe. Thank you. Thank you. Grazie a tutti. Grazie. Grazie mille ai ragazzi dell'XML 24 che hanno dato il posto come niente. Grazie anche a TV Day, Laghetto, tutti i gruppi che hanno suonato, grazie mille a tutti voi di essere venuti. Siamo l'ultimo, grazie mille. You need it!